Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô. CQDX, this is Station of Lima, Italy, from Sardinia calling. Tutti che mi camminello ancora di più su. Ciao Antone, come va? Tutto bene? Più o meno sì, sto facendo visite mediche, sto facendo sangue, testa, culo, tutto. Cioè perché? Come cavolo è successo? Perché questa storia del come si chiama, che svengo collasso in pratica, hai capito? Non è normale, quindi sono condannato tutto, testa, cervello, come se l'oro, sangue, piscio, tutto. La mamma me l'ha contato il culo, cazzo, se ce lo sanno. E quella cosa al collo l'avevi controllata? Quella è a giugno. E cacchio, cioè se è una cosa urgente voglia crepare uno. È appunto per quello, infatti, è quello che conta, hai capito? Quello che c'è al collo è più che altro, del resto non me ne frega niente. Secondo me è tutto al collo, hai capito? Poi vediamo un po' cosa faranno. Stamattina col freddo che c'erano 2 gradi, adesso stavo qualcosa mio, sai? Non ho bevuto niente, non ho mangiato niente, niente, nulla. Mi sentivo tutto strano, mi sentivo come se fossi, se mi piegavo, cazzo, c'avevo non mal di collo. Cosa ti posso dire? Ti viene da tipo mancamento, mi hai capito? Marco, è sparito. Chi è? Avanti, chi è? Beh, brutto buco. Come va? Ciao Bocco, bene. Pure il mal di gola, sto bene. Sì, quello ce l'avevo tutti. Ce l'avevo anche io. Stamattina mi sono pigliato un freddo. Che non avevo idea all'Inam. Ma gli mi ha dato in bicicletta con freddo. Io in bicicletta non ci sono uscito, sei scemo. Sono uscito stamattina, l'ho fatta tutta a piedi, da qua sino all'Inam, la verità, e c'erano 2 gradi stamattina. Mi stavo congelando, non riuscivo neanche a piegare le ginocchia. Freddo c'è. Stanotte ci sono 0 gradi, stanotte, quindi preparati stanotte. Stanotte metti la birra fuori, non c'è bisogno neanche di mettere in frigo. No, ho bevuto ieri la birra, ma sai, oggi nulla. Io ho bevuto solamente oggi, la verità, stamattina, per scaldarmi, non per altro. Perché la colazione, sono andato a fare la colazione stamattina alle 7. Appena aperto il bar, sono andato alle 7 del mattino, mi sono preso una pasta, anche se non potevo prenderla, me l'ho mangiata e mentre devo non mi sono sentito male. fuori al fossato alle 7:30, le 8, dopo un quarto ho cominciato a sentirmi il collo che mi faceva, dava fastidio, tipo cappuccino, capito? Ho detto, guarda, io non ce la faccio più, detto, o mi fa entrare, se no, detto, io me la prendo e me ne vado. Allora l'ho fatta entrare, perché ho dovuto fare le analisi del sangue stamattina, quindi a un certo punto, figurati tu, dopo che sono uscito da lì a fare l'analisi del sangue, sono che mi sono voluto un abito da Licco, e poi sono salito, ho preso il tram e sono salito a casa. Ho pranzato e sono stato bene. E non va bene, tanto. Già va bene, dai, alla fine. Vabbè, quello sì, vabbè, adesso domani riprendo a fare il cantante che facevo prima, quindi almeno brucio un po' di calorie e mi scende la glicemia immediatamente e sono a posto. Perché ho dovuto rimanere fermo perché se no stava male, sono stato sempre a casa, sono preoccupato, una cosa all'altra, la testa lo sai, non ce l'hai più, perché non ragioni più a un certo punto, quindi adesso lei sta bene, ha migliorato e quindi sarà male riprendo a fare ciò che facevo prima. Sta bene Simona, sì. Sì, adesso sì, ma la male sì, era ora. Ma com'è, dai. Adesso mi hanno dato le medicine per i cavalli, cazzo. Addirittura. A che pare cazzo che... Vediamo le medicine che danno la sua di adriana, ma sei scemo. Gli hanno dato quello di allatto. Casino, questa medicina. Non è in quelle condizioni, siamo la casa di ha solamente panico e basta, non c'è nient'altro. Beh, certo, certo. Anch'io ho il panico qualche volta, ma riesco a mantenermelo, perché non è che vado in farmacia, mi piglio l'exo quando sono fuori, no? senza ricetta, quindi vado, piglio una birra, quello che è, me la butto piano piano e calma, hai capito? Calma immediatamente il panico, la birra. Ciao Giambino, la prossima volta mi ripiego la gascia allora. Allora, te lo sto dicendo perché è successo a me. È successo a me Alghero, io non c'avevo niente, non c'avevo niente medicinale, nulla. Sono andato con questo colantonello, lì Alghero, eccetera, eccetera, ho detto, mi sento male, sto male, ho bisogno, di andare in farmacia, a prendermi di Axetan, e lui mi ha detto, tu non puoi dire niente, ha detto, stai calmo, lascia fare a me, ne raggio io, mi ha detto. Come siamo arrivati lì ad Alghero, a Protoconte, mi ha fatto avere immediatamente un bicchiere di coso, di birra, dice bevila piano piano, mi ha detto con calma, è verrà che ti passa tutto. La verità, sono stato bene, sono stato veramente bene. Meglio così, Antonio, buono. Beh, sì, tutto la non lo so, da casa mi ha pigliato, per questo panico così, hai capito? Comunque sia, sono stato veramente bene. Tutta la mattina sono andato all'altro, in giro, a assaggiare, di tutto, quello che era, si chiama Gruppo 20, si chiama. In pratica ognuno porta la roba di... che produce lui, te lo fa assaggiare, capito? E poi dice se ti piace, te lo compri, se non ti piace, pazienza, te lo assaggi, hai capito? Ti fai un primo, un secondo, un altro terzo, eccetera, eccetera, fino a dolce, eccetera, perfetto. E non da me, di lusso, sta lavorando, sì. No, sono fermo, adesso sono fermo. Purtroppo sono fermo, da quando fermo a Simona sono fermo anch'io, perché in pratica non bruciavo più calorie e cose del genere, quindi a un certo punto quando pigliavo le pizze, tac, prendevo il caffè e mi collassavo il caffè in casa. Suona il mio telefono. pizzeria, né pane, né pizza, né un cazzo. Cioè, io lo sai com'è la questione. Ah, le pizze come del genere non si può prendere. Oramai è quello il problema. Antonello, sei tu? E io. Prima ha chiamato mamma in fretta, urgentemente, e sono dovuto sparire. Beh, sono accorto, infatti, sei sparito. E adesso stavo spendendo, cioè, insomma, che non mi... Già non ti annoi qua, tu già ci sei già passato. Faccio, mi faccio un giro, ne parlo forse dai cinesi, da muraia, le lampadine e altre menate del genere. Ok. E poi mangio. Se mangio adesso mi viene la biocco, mi corico e poi non faccio niente tutta la sera, capito? È finita. Allora meglio mangiare dopo con calma. Ciao. Guarda che ci sono in un locale nuovo. In pratica delle lampadine a LED che sono di colore, cioè rettangolari di colore nero, di 10 watt e costano 5,30 euro, ma hanno una potenza allucinante, c'hanno. Tu immaginate che io mi sono svegliato la mattina presto verso le 5:30 di 6, ho acceso la luce, l'ho spenta, dopodiché ho acceso la luce di camera mia, ho spento quella, poi vedevo bianco, poi vedevo manco la malomia, per mezz'ora, talmente la foto, la luce, non si vedeva la malomia, aiuto, cazzo, come mi è mancata la vista, vedevo bianco, quindi figurati tu quanto è potente, e costa una gazzata, 5,30 euro, sono a LED, sono dei faretti a LED, so. Non sarà come quella che ho preso io, costava tipo 5,20 o 5,30, in effetti è molto forte. E prima c'era, diciamo, era forte, era tipo l'equivalente di un 80 watt, no, per una camera da letto va bene, però era un po' giallina, non c'è, quando ti cadevano vitina a terra non la vedevi, allora ho messo questa e questa è fortissima. Se te l'accendono che tu sei a letto, no? E te l'accendono e ti va negli occhi, ti fa cieco. Adesso dovrebbe essere un 100 e più watt, 110, 120 watt, l'equivalente delle vecchie lampadine, capito? E consumano poco e niente. Infatti, aspetta un attimo, vediamo se riesco a trovare il scontrino, te lo dico subito, dove l'ho preso. Aspetta, un attimo. Però questo è il coso, c'entra un cazzo. L'ho preso lì a Pedalienda, mi ci ha portato Giovanna, mi ci ha portato la verità, eh. È un negozio nuovo, tutto il pavimento è in marmo, cioè, marmo bianco, cazzo, adesso mi viene in mente il nome, vaffanculo, ma aspetta, ti dico la lampada, aspetta. Fai, aspetta, controllo qua. Ola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, test, 1, 2, 3. Si chiama LED Flow Lighting. 10 watt, 930. Italia, vabbè. Luca Fred, vabbè. Io ci sono 6500 K, è piccolino, non è che sia grande, non è come quelle grandi che vendono di subito, è allucinante, cazzo, c'ha un coso, porca miseria, cazzo, ecco, trovo lo scontrino sotto, avrei detto in che via è adesso. È andato comunque, se mi ricordo, e dovrebbe essere dopo Bricome, se non mi ricordo male, negozio in pratica, sì, dopo Bricome mi ricordo che era, ma 5.30 ho regalato, là, quelle lampade, ne ho preso due, ne ho preso, qua dove si allatta, se sto dicendo, l'ho messo in bagno, ho staccato quella lampada che c'era, se ho messo questa e ho fatto l'altro che mi sono stato verso le 3 di mattino a me, andare a fare la pipì. Entro dentro, vado lì, dopodiché spengo la luce, accendo la luce di camera mia, che c'è anche quella delle lampadine a LED, dopodiché spengo, accendo che strano, detto. Chiudo gli occhi e vedo bianco, apro gli occhi e vedo bianco. Ci passavo la mano davanti agli occhi, non vedevo un accidente, ma per sapere quanto, a me una mezz'oretta, non vedevo più niente, vedevo, è come se io, se mi fosse mancata la vista, fosse cieco. Stava uguale, che vedi bianco. Sì, Giacchio, se ti fa cieco, cos'è, un'esplosione nucleare in miniatura? Ma non so, forse non ero abituato, adesso non me lo fa più, però stamattina mi sono fatto, non me l'ha fatto, tanto per dire, ma l'altro giorno me l'ha fatto questo scherzo. Figurati, sono piccoli, è piccolina la metà di quella lampada che mi sono pensato io, quelle bianche, la metà sono 10 watt, ma sono allucinanti, te la faccio vedere, se lo passi te lo faccio vedere, te le prendi uguali, sono lì a pedalare adesso. 5.30 l'ho pagata, ne ho preso due, una per il bagno e una per, me l'ho pigliata per il coso, per fuori, per il terrazzino. Ascolta, quella cosa dell'altro giorno funziona tutto? Sì, quello sì. Sono contento. E vedi, se si può fare via coso è meglio, perché questi software, certe volte non ti funziona il software, o non riconosce il cavetto, poi adesso questi Windows nuovi, adesso l'11 già sta passando quasi di moda, è uscito il 12 di Windows, e lì lo stesso, magari non trovi driver, ti deve zuffare, vabbè. Sì, vabbè, dunque, il telefonino, quello che avevo io, gli ho fatto il programma del mio, è venuto lui, dice, me lo regali anche a me, che il tuo è Windows 7, e poi me lo metto Windows 10, e poi pigliatelo, non me lo frega niente, e infatti sono stato verso, mi ha programmato quello che ho io, il Samsung, e sono stato quasi fino alle 11:30 di notte, figurate che stavo programmando. E funziona benissimo, è perfetto il telefonino. L'altro della LG era una cosa allucinante. E come li agganciavi, come si chiama, andava in affanculo. Si scaricava la batteria, lo stava sempre sotto carica, oppure non riuscivi a caricare. Allora, ha preso già il lampad, ce l'ho buttato proprio. Meglio. Va bene, adesso valuto se... Mamma mia. Un po' calde sole pure, valuto se uscire, faccio delle cosette qua in casa, poi valuto, dai. E sta facendo tardi, va giù Bruvami. Come esci, ti fai la spesa, poi mangi. Altro non ti posso dire. Cosa devo dire? Se poi dovrei attirare io, mi. Secondo me. Quindi ho fatto il così, ma oggi, domani me ne vado in giro tutto il giorno, fino alle 9:30 di sera me ne sono in giro. Almeno brucio un po' di calorie, tolgo un po' di colesterolo, roba del genere, e torno come prima, in tempo di una settimana, massimo un mese. Certe volte non capisco tutto il parlato, tanto è un po', non so, un po' impastata, oppure è impastato il mio orecchio, il microfono, perché il microfono, vabbè, quello che è, va meglio così, distante, sì? Sì, vabbè, anche vicino, basta che scandisci un po' le parole. Bene. Antonio, io stacco, vedo quello che riesco a fare, perché in realtà la spesa alimentare l'ho già fatta e lì ero così per vedere le lampadine, cose elettroniche, c'hanno sempre i bao bao, c'hanno, capito? E quei cinesi se li usano sui 465.000, cioè in piena frequenza ministeriale, capito? Non li beccano mai allora però. No, l'ho fatto io e i babbo ce l'avevano. Mi ha detto che c'avevano i walkie talkie, mi ha detto, non babbo. Infatti mi sono fatto un giro e non l'ho trovato. Mi è capito, però ho trovato queste lampade, la verità me ne sono preso due con Giovanna e basta. E dovrebbe essere quel negozio che rimane a Fabricone, hai capito? Da quanto mi ricordo io. Io da Bricome ne avevo presa questa lampada. E vabbè, se puoi manda la foto di questa lampadina, lampada, quello che è, mandala tramite WhatsApp, Telegram, non so se ce l'hai più. Devo controllare, se c'ho il coso tutto lo mando subito. E così te la guardi. Questa è una gazzata cosa. A quel pezzo lì ti ho detto compare, ti puoi fare tutta la pantalata, ti puoi fare a un certo punto. Piace solamente il LED, dato che le lampadine normali là, onde sono, cazzo. Hai capito? Piace quelle, sai come ti fa la luce? È allucinante di notte, guarda, è veramente bella, bianca, come se fosse illuminata al giorno. Allogena, hai detto allucinante, allora è allucinogena. Allucinogena, mi sa che questa se la compreranno quelli che ti posso dire, che si mettono a vedere i pianti di cosa lì. Non di cocca, l'altra, quella che fa bene, hai capito, per le malattie croniche. Marijuana, cannabis, erba. Per la cannabis, sì, quella va bene, cazzo. Io usi quelle, usi un affiatoio e sei a posto. Per la cannabis è perfetta, guarda, questa lampada. Consuma una cazzata, non consuma nulla, non si accorge nessuno. Perché quando, di solito quando tu pianti la cannabis ti controllano il contattore, no? Che ciuccia. Ho capito poco e niente, Antonio, un po', non lo so, la maturazione magari non è proprio limpidissima, oppure è il mio orecchio che ha messo peggio. Vabbè, dai, stacco, se no non combino niente. Ci sentiamo, Antonio. Saluta Giovanna, saluta Simona, tutti. D'accordo, so quando su... Aspetta, sul telefono, sul Samsung, vediamo se ci sei, ti mando la foto della lampada, così guardi e te la controlli. Aspetta un secondo, a proposito, ecco perché mi sentivi male. Ah, sono soltanto avvato, aspetta un attimino, ti mando la foto. Io. No Marco, mandami il coso, la chiamata su e poi ti trasferisco su WhatsApp. Ti telefono? E poi ti trasferisco su WhatsApp, sì, bravo. Se funziona, ci senti tu? Sì, funziona. Adesso, aspetta, chiudo, aspetta. Servizio segreteria telefonica. Ehi, aspetta, adesso ti memorizzo. Ma entra sempre di default, eh? Cioè non la puoi togliere o l'hai scelto tu? No, è sempre così questa cosa, hai capito? Però sicuramente se tu vai sul portale di Poste Mobile o sull'applicazione, anche Iliad lo faceva e l'ho tolta, non ne voglio segreterie telefoniche, tanto poi i messaggi non ne lascia mai nessuno, capito? Ok, aspetta, due secondi poi vediamo se è tuo, eh? Adesso faccio scusare, dimmi se è tuo, vediamo un po'. Bene, allora Antonio, fai con calma, quando puoi la mandi. Ok, adesso poi dopo, una giugana, però ogni giorno una giugana, Vigenza Tamadillo, 9 razzi a 4000 rubi, 2 razzi di 9, 10, 24, 64, 90. Un mattolino. Ah, e chi è? Tu sei che mi sto nel cuore. Non sto riconosciuto. No, è che la modulazione è troppo amplificata, sente una bulutu. È a zero. È a zero quasi il microfono. Luca Flipper. La buon'anima di Facco, il modo che tu pare. Ah, compagno, tu si chiama Scaldi. Il cuore, diciamo il cuore. Vai Marco. Adesso va bene. Aspetta, ti cambio il microfono, vediamo se ti piace questo altro. Mamma mia, era tutta troppo pompata. Vediamo se ti piace quest'altro. E non è uguale. Uguale, un po', diglielo tu. Ah, questa è diversa, questa si sente che è MC 60. A me come mi ascolti, guarda un po' uno di te. Quando finisci di fischiare, spegni la televisione, forse è meglio. Spegni la televisione. Ah, aspetta. Anche prima, adesso è troppo forte, sente un rumore bestiale di ventola, no? Però anche prima io non capivo tutto il parlato, anche perché Antonello magari ogni tanto si impasta nel parlare, e poi io sento anche, non ho l'unito perfetto e quindi ne sento la metà, lui dice la metà giusta, io ne sento la metà della metà giusta. Ascolto, ho bevuto appena adesso una bottiglia di Ramazzotti, come va? Meglio o peggio? Vabbè, adesso è più bassina e sì, un po' cupa, più o meno, poi più bassina addirittura. Aspetta. Siccome sono vabbè che non uso l'apparato, quindi. Allora, vediamo un pochettino. Dovrebbe essere giusto adesso. Vedi un po'? Ok, vabbè sì, già diciamo che andrebbe, cerca di scandire le parole e così, dai. Dai, devo staccare, da poco fa che sto staccando, non stacco mai. Dai, devo andare, ciao Luca, ciao Antonello, ti aspetto. Sentiamo. D'accordo, ci vediamo a dopo, ciao Marco. Ecco. E chi è? Ah, questo è Salerta, Buonasera, dottor Luca. Si sente la Salerta, la bip. Avanti Gianni. Salute, sei rimasto Antonio. Ciao, c'è anche Luca, c'è Flipper. Avanti Luca. Riparate voi, che sto saldando. Cappa. Come stai? Ho saputo che non sei stato bene. Antonello ha cambiato sesso. Cazzo, magari. No, non è quello. No, mica ho cambiato sesso. È diventato lì. No, stavo lasciando le gambe, da qui, a le guide. È stato lì, sei stato tranquillo. Voi, in pratica. C'è la stessa cosa che c'hai tu. 104, però. Antonio, si sente un abutto che non c'è niente uguale, ti sovramura. Aspetta che stacco il microfono per ficcato e attacco normale. spiegano. Un saluto anche a Gianni che è entrato, io sto per uscire. Ciao, ciao a tutti, ciao, buona serata. Ciao, ciao Marco, voi siete l'apparato in macchina, così almeno ne parliamo. No, sono in moto, a meno che non lo metta in moto. Io perché non l'ho fatto, io l'ho messo in moto. Ci ho messo al posto del bauletto di dietro, l'ho tolto, dove c'era il ferro ho attaccato la magnetica e davanti mi ho messo l'apparato. Mi sono messo a condurre la piazza del sito. Ogni freddo, vai, vai. Fatto anch'io già, fatto tanti anni fa, quando avevo la moto Kawasaki, la 250, la Z250, avevo messo sulla maniglia di dietro, sai che antenna ho messo? Ho messo esattamente la frusta nera da un metro, quella che ho dato a Natalino, che poi era il radiale della Boomerang full size, no? Attaccato alla batteria 12 volte della moto, naturalmente lo usavo da fermo e funzionava bene, cioè l'antenna era sempre la frusta nera da un metro, no? Quella lì classica, ed è la stessa frusta che poi mi è rimasta 30 anni inutilizzata e l'avevo data a Natalino quante, due anni fa, un anno fa. Adesso stavo cercando la frusta nera, adesso l'ho trovato un'altra di antenna, quella che c'è San Vito, abbiamo fatto le comparazioni, Marco, arriva più forte della Tuvo 2001 ed è un antennino da 1,60 m, arriva più forte della 2001, abbiamo fatto la comparazione, abbiamo messo l'antenna di San Vito sulla macchina mia e praticamente a fianco alla Tuvo 2001 con lo stesso mio apparecchio, abbiamo provato tutti e due, una è arrivata attenuato, uno a picchi 3 che è la mia e l'altra, quella di San Vito, è arrivata a 3 a picchi 5. Cacchio, che antenna è? 1,60 e vabbè, ce ne sono tante. Io te la mando, dai, se provo, te la mando. E marca modello, una volta che sei marca modello, non che la debba prendere, perché già io avevo preso anche una specie di antenna gemella, quella che ho io, non è proprio gemella, è di un'altra marca. Ed è sempre un metro e 1,50, 1,60, sempre con l'attacco PL, e l'ho messa sulla base magnetica, pensa che non l'ho ancora collaudata, la dovrei collaudare a lungo, l'avevo solo taratta e poi buttata nell'armadio. No, questa arriva già taratta, con la base magnetica e col PL, tutto quanto, tutto c'è, non fai caso che metterla e parlare. E io. Beh, 1,60 non è poco, 1,60 è già, diciamo, il giusto compromesso già, 1,5 m così, cioè non è né troppo striminzita, perché guarda, dal metro in giù mi dispiace, ma non va, io ce l'ho lunga 1 m, quella caricata al centro, quella della Sirio, quella che avevo pagato un bel, però rende quanto un'antenna da 1 m, c'è poco da fare, devi andare sul 1,5 m o poco più, allora cominciamo a ragionare. Va bene signori, devo staccare, manda la foto poi già me la guardo con calma. Ciao a tutti, ciao. Questa, Marco, non è conosciuta l'antenna, non conoscevo manco la marca io. Vabbè, c'è per la mano, va. Capa, va bene, ciao, buona serata a tutti. Ciao Marco, ci sentiamo, buona serata, alle prossime. Adesso mi senti meglio, Gianni? Adesso sì, ma prima si sentiva il televisore, non so cosa era, boh, un casino nero, si sentiva, è presente anche Natalina a volte quando muda, sente più il televisore di lui, così sei tu. Già lo so, e vabbè, ti ripresenta che io sono un bel che sono fermo di, come apparecchiature, la verità, quindi a un certo punto non ho tempo di fare niente, faccio trovare vedo di modificarmi tutto e così mi sistemo un po' la roba. Ti stavo dicendo che in pratica da quando è stata male Simona io mi sono dovuto bloccare dal lavoro di là, e tu lo sai, ho dovuto bloccare tutto, quindi non ho più lavorato, non ho fatto niente e in pratica dopo 3-4 mesi mi sono sentito male, a un certo punto ho detto è strano, mi sento male così e in pratica non posso mangiare né pasta né pizza, è stato proprio boh, tutto incasinato ha avuto. Prima mangiavo di tutto, pasta, pizza, anzi pizza più che altro, no? pizza. Quando andavo d'estate a Alghero bevevo un po' di tutto. Aspetta un secondo. Rispondo a telefono, e che malasso ti ha preso lì? Non lo so che cazzo malasso ti ha preso, la verità non riesco a capire neanche io. Io sono alibito quanto sei, guarda. Tu lo sai, già te lo ricordi, io quando stavo lavorando mi sono fatto, guarda, tutto l'ulio, mi sono fatto lavorare tutta l'estate, eccetera, eccetera, non ho mai avuto niente, Quando ho finito di fare l'olio, che sono rimasto a casa, che ho avuto, cioè, prima il Covid di Simona, poi l'influenza io, tra pastiglie, eccetera, eccetera, sai che mi fanno chiamare a telefono. Sì, ma ti sei fatto vedere un pugno. Vabbè, lì. Aspetta, già, ti richiamo subito, 5 minuti da me, perché sto scendendo un apparecchio a uno che ho sistemato. Sta arrivando subito. Eia, va bene, non c'è problema. Eia. Cantami del mio pappagallo. Sto allenando un passaggio di guasse. Chi è Avanas? Io sono. Come chi è? Ma non sai che sto uscendo con un guasso e mezzo. Oi Eugenio, ciao. Ma tu stavi cantando. E allora? Come rubi la tavola e poi la porta con te. Tu sai che te la futti. E già, io sono un po'. Cazzo, più di questo. Fai bene Eugenio, fai bene. La vita è una, bisogna goversela. Bravo, bravo, siamo d'accordo. È stato inutile di avere musi, non farmi dati guaienti, tutte queste cose qua. Oi, una è la vita, se non te la godi. Bravo, oggi ci seguo, mai. Senti, non bevi il QRM, tu lo senti questo QRM? Sì, ma bene, è fare più anche. Sono stato sempre davanti qualcuno che fa una sottofondo. Alza la bottenza, che non si intendi. Eia, che ciume di QRM. Già, l'ho appena acceso, capito, lascialo scaldare un po'. Adesso come scalda è già sale. Sono ancora a due fasi, capito? Come scalda è già sale. Ehi, aspetta un attimo, che sto controllando una cosa sul prof. L'hai visto quel messaggio che ti ho mandato? No, non l'ho visto, sinceramente. Sul messaggio? No, non l'ho visto, già. Ehi, vabbè, niente di impegnativo, vai. Sto dando una turbo 2001 con magnetica. Se interessa qualcuno che lo senti, me lo fa sapere. 40 euro sto dando. L'antenna? Turbo 2001 con base magnetica. Ma buono, 40 euro è buono. È buono sì, perché io me la sto cambiando, me la sto mettendo più piccola. Ho sgrammato un'antenna che va più forte della 2001 ed è corta. E qual è? Tra la mano. Io voglio cambiare quella del campo, perché questa cosa nera, grossa non mi piace. No, tu vuoi che mi costi di più. Eugenio, sì. Attento Eugenio. Hola. Ah, tu sì. Ricordata. E va vinta. Hola. Oh. facendo una prova intanto, va. Vedere come va questa cosa. 1, 2, 3, prova, cambio. Attenzione, Gianni, ci sei? Gianni. Attento Gianni, lo più drum, cambio. Io t'ammazzerò, ne ho le palle piene di questo Sanremo. Che palle, è bianco qua, è bianco là, è la frani qua, è la frani là. Ma rompetemi, lo ascoltano. Bisogna girare il canale. Tino, sei tu. Attenzione sul canale 10. Sì, no, sei tu, mi hai preso la tua vista. Sai che mi hai preso il canale, allora sciupami. Luigi! Ehi, ah! Sei sparito poco fa! Sto culo è sto cugiamenti, già! Perché ho spento, perché ho intuttato, è inutile che consumo energia elettrica se non c'è nessuno, se è acqua renna è Insomma, ti sto chiamando, no, sto risolvendo una cosa con la stampante, adesso tutto a posto, finito. Certo, non mi sono mica arrivato alle foto. Non ti sono arrivate? No, mi è arrivato un messaggio vocale, ma a foto non me ne sono arrivate. Aspetta, a me risulta che te l'ho mandata, se te ne arriva un'altra, guarda. Adesso mi è arrivata. Ci mi è arrivato un messaggio, non so se sei tu, aspetta un attimo. Sì, sei tu. E oggi è bene, l'hai vista. Mi arrivano. Ah, eccola qua, adesso mi è arrivata. Guarda, antenna Sunker, LA, PCB, con magnetico, base supporto 600 watt, questa qua, ma questa è una cosa da internet, una foto da internet. È da internet, sì, ed è da DB. Ma di quelle che quando moduli si illumina? No, non si illumina niente. Quella lì è un'antenna che è superiore alla cubo 2001, perché ho fatto i paragoni, ho messo un'antenna e l'altra con lo stesso baracchino e una usciva più forte dell'altra, una a 3 e l'altra a 5, attenuata. Ma da me nel capo non si può mettere, perché io ho la base, così c'è la base a farfalla, dai. E chi l'ha detto che lo si può mettere? Basta che tu di quella farfalla e lì metti l'altra. Ma l'aggancio sotto al piede diverso. Ma tu dove ce l'hai l'antenna? Fammi i cappacci. Ma il capo è sopra il tetto. Sopra il tettuccio. E quella lì c'ha praticamente la filettatura. Tu apri la base magnetica, tu di quella filettatura che c'è e la metti sotto dove c'è il buco dell'altra. Solo che devi allargare il buco, perché con quel buco piccolino non ci passa. Beh, hai ragione. No che io ho la farfalla col buco grande, capito? La farfalla che c'è il buco grande. Ci può andare bene, giusto, è vero. Ma sai che tu li togli la magnetica, la togli dalla magnetica, la metti lì. Sì. Quanto è lunga? 1,60 m. Ma è lunga comunque, no, credo fosse più corta, tipo 80 centimetri, quelle cose lì. No, sotto il metro, ricordati che non imbattono nulla. Io sto cercando quella che c'ha l'attacco a farfalla, che c'ha la molla al centro, capito? La carica al centro. E poi c'ha lo stilo che c'ha lì su, hai capito qua? Quella che c'ha quel cerchietto per regolare stazionarie. Bravo, quella lì. E guarda su internet, ci sono quelli lì, ma io le ho sempre odiate con le antenne, lo sai. Ah, io ce l'ho avuta, la macchina usciva molto bene. Ogni tanto si muoveva quel cerchietto, e toccava restringerlo, rimetterla, ripararla. Ciao Antu. Cioè la vittina va stretta e poi sotto ci metti una puntina di acqua, che non va più da nessuna parte. Capo, oggi è entrato Antonio, lo senti? Antonio chi? Bombolo? Ehi, no, non lo sento, come mai? Non c'è che non è a casa sua. E adesso, genio. Hola. Eugì, me ne dai due comparazioni, guarda il segnale adesso e poi guardalo adesso, a vedere come va. Allora, il secondo passaggio ha abbassato, allora da 9,5 si è passato a 9, però la radio è più bella, è più limpida. Quando eri a 9,5 il primo passaggio tendeva a strappare, troppo compressa. Qui quindi così dici che è meglio. Guarda, adesso mi allontano, così va bene. Aspetta, è più chiara, prende meno, cioè non strappa come prima. Ho capito, dai, va bene, va bene. Questo qui è sempre la potenza dell'apparato, l'ho portata da 5 watt, l'ho portata a 10. Va bene, va bene. Cielo, ma Antonio, come mai non lo sento? Prima lo sentivo meglio, cioè da casa sua, ma non è a casa sua. Sì, sì, sempre a casa sua, solo che ha cambiato casa oggi, capito? Ah, c'è un bel problema, non lo sento. Non ti senti, Antonio? Non mi senti, Uge, prova a vedere adesso. Lo senti? Non lo capisco. Ha detto che non ti capisce, Antonio. Pensaci bene, mettila sul tetto, un'antenna grande e sei a posto. Sul tetto la può mettere? Ma... sto organizzando il lavoro. La metto sul tetto, tu, guarda che c'è bisogno. Kappa. Tu ne hai, sì? Sì. Da quanto? Kappa, va bene, dai. Eugenio, sempre col K, sì. Vabbè, io sono quello. Ho solo quello e il baracchino originale del camper. Qua a casa, nel camper l'ho cambiato, gli ho messo quello che mi aveva regalato Marco. Ah, va bene. A voi, ci parlo sempre con voi. Dal camper. Ma pure va bene. E mettili qualche linearetto e magari pompa di... No, non mi interessa. Perché ho sempre... E io adesso facciamo un'altra prova, aspetta. Così. Sei sceso a 7. Guarda adesso se sale. Sì. Ma voglia, sei arrivato a 10 adesso. Adesso è un problema, raga, che non sento Antonio. Perché Antonio adesso si deve attrezzare, dai. Si sta organizzando per mettere l'antenna sul tetto. Ah, ma non ce l'ha l'antenna sul tetto, no? Ho capito, allora è per quello. No, l'ha messa fuori dalla finestra, dai. Nella ringhiera. Attaccata, però adesso si organizza piano piano e vede un po'. Ok, dai, allora ho capito tutto, va bene. E dove sta abitando adesso? Non c'è piazza, sai il vecchio? No, adesso abita a Latte Dolce. Ah, e allora non ci dovrebbero essere problemi con anche la sopra il tetto. No, è una buona zona quella lì, è una buona zona. Andave. Gianni Bloffetta, ti senti tu Albert? A chi? A Gianni Bloffetta. No, negativo, non l'abbiamo più sentito, non è più entrato. La massa ne esce da Gianni Bloffetta, esci una fuga. Magari ha trovato qualche lavoro, capito, oggi? Io me lo auguro. Ah, speriamo. È impegnato, magari lo potrei per quello. Io c'era un periodo che non entravo più perché stavo lavorando di sera e quindi la sera quando io uscivo dal lavoro se ne stavano tutti andando. È il mio stesso problema. Io quando esco dal lavoro 8:30, 9, la sera non c'è più nessuno. Proprio anche dopo cena, ma non c'è nessuno. No, qualche volta siamo entrati io e Gavino, e qualche volta entra anche Tonino, qualche volta... Sì, siamo entrati, ma non è sempre, dai. Ma non è sempre, capito? Il problema è quello, che non è sempre. Dipende cosa c'è il televisore, io perlomeno vado così. Se c'è qualcosa che mi piace, ok, se no accendo l'apparato. Ah, ho capito. Io continuerò a fare chiamata dopo cena, se c'è qualcuno, vediamo un po'. È anche più bello dopo cena perché c'è una tranquillità, un silenzio, non c'è QRM. Sì, lo so che è bello. Cata, mi si è tirato il muscolo, il tendine che c'è nel collo, di colpo così, in piedi, tranquillo. Cazzo, invece è bloccato il collo, non riuscivo a muovere. È a freddo per forza. Ti tipo un crampo mi è venuto, mi così. Ah, non era mai successa una cosa del genere. Io comincio a susare. La vecchiaia è quella. La vecchiaia è garrona, ma cazzo nata lì. Ho una specie di crampo al collo, che non riuscivo più a muoverlo. Di colpo così, senza motivo, non è che ho fatto strappi a dire, ero in piedi, tranquillo. E vabbè, ma poi ho fatto una manovra e me l'ho messo a posto. Io guardo molto internet e vedo come l'osteopatico fa queste mosse strane. E ho visto come fa per il collo. Ma l'ho fatto, ha scrocchiato. Ma bisogna anche sapere fare. Ciao Natali, se mi ascolti. Io non lo sento. Purtroppo sono basso. Infatti sono basso, non lo so se sta vivo di radio, almeno. C'ho 4 watt. Non mi sente. Ma già lui è che sta usando il bip. Il bip è il mio. Mi senti, Yuji? Oh, Natali, se è il tuo il bip, io non riesco a capirti, sento un borbottio, non lo so se mi senti tu, ma... Andiamo, andiamo! Amico mio di Porto Torres, mi senti a me? Ciao, amico mio di Sassari, da quanto tempo? Allora, Luca, Luke Pod. Amico mio, ma mi senti, sì? Certo che ti sento, se ti sto rispondendo. È che non sento il Natalino, se il suo il bip, dire che non riesco a sentirlo, boh. È Natalino il bip. Natalino è cuocomane, per quello non lo senti, boh. E lui sempre in giro con cuocomani. A me mi hanno detto che sei diventato Finocchio, tu vero, No, occhio fino. Tu sei Finocchio, io l'occhio fino. Cazzo di è. Sì, dai, è vero Natali, con quello di Gianni però. Il bip. A mio se senti il bip. Sosso. Ehi. Non sei di a fare il visito, se non mi ha fatto il bip.